많이 왔지 오늘. 라디오 아치오네 어른. 라디오 아치오네 Radioazione.org. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Navig apre il cassetto della sua scrivania e ne tira fuori la scatolina con la lametta e una bustina di coca. Stende la sostanza sul tavolo e ne fa una sola riga lunga almeno 10 cm che tira su per il naso in un solo colpo. Il tutto avviene sotto gli occhi sempre più esterrefatti dei suoi colleghi. E se ce ne sarà bisogno, imbraccerò anche io il fucile. In modo molto arrogante si rivolge ai suoi colleghi. Peccato che già da prima che lei fosse a conoscenza che si trattasse di una rivolta, aveva già fatto preparare l'elicottero sul tetto. Una voce dalle sue spalle gli entra dritto come una lama nella sua schiena. È quella di un giovane ufficiale che è appena sceso dalla terrazza della torre dove è parcheggiato l'elicottero. «Quello è sempre lì, per ogni evenienza. No!» «Senti, giovanotto, innanzitutto porta rispetto per un generale, poi scende anche tu con i Tarspok immediatamente perché sei declassato. Senta, Navig, per lei, signor generale. Ascoltami bene, rimbambito!» Navig diventa viola dalla rabbia. Nessuno mai tra i suoi uomini di grado inferiore, nella sua fortezza, lo aveva apostrofato e ridicolizzato in tal modo. «Allora dicevo, lei non comanda più un cazzo. Se poi alla fine vinceremo noi, sono disposto anche a farmi arrestare, ma ora è tempo che lei si metta da parte perché non è più in grado di comandare nessuno.» Le parole del giovane ufficiale Tarspok trova d'accordo tutti gli altri, cosa che aumenta l'ira di Navig. «Fuori da questo ufficio, subito! Arrestate quest'uomo e fucilatelo!» L'ordine è diretto verso due Tarspok cade nel vuoto e con esso anche lo stato psicologico di Navig. «Signori superiori, io sono il tenente Erfari. Mi dispiace per i miei toni, ma volevo nei vostri sguardi un'apprensione per i metodi usati dal generale. È arrivato il momento di sederci a tavola, anche lei, signor Navig, e decidere tutti insieme cosa fare.» Tutta l'autorità Tarspok si siede immediatamente al tavolo tondo. L'unica ancora in piedi è Navig, che si dirige verso la finestra con lo sguardo perso nel vuoto. «Signor Navig, non la interessa?» torna il giovane ufficiale. Non una parola, non uno sguardo verso l'ufficiale. Dopo pochi secondi, Navig però, a testa china, si dirige verso il tavolo e si siede al suo posto. In strada, intanto, i rivoltosi chiusi in una morsa di fuoco stanno soccombendo. Igen, ad un certo punto, si stacca dalle barricate e corre verso la zona Gap. Poi, rivolgendosi agli uomini che sono di guardia al camion con l'esplosivo, chiede: «Avete già ammazzato i Tarspok che avete preso in ostaggio?» «No, sono dietro nel cassone, legati mani e piedi.» «Ok, allora è arrivato il momento di usare l'esplosivo.» «Come, Igen? In che modo?» «Prendete i topolini e legateli al volante dei due furgoni. I due camion devono andare uno in direzione della Torre M e l'altro nella direzione di quelle altre merde. Quindi apriamo due varchi tra i due nostri gruppi per far passare i mezzi. Quando i furgoni sono arrivati a destinazione, facciamo fuoco sulle casse di esplosivo che porremmo a vista. È l'unico modo che abbiamo per equiparare i numeri tra noi e loro.» «Ok, Igen, tu avvisa gli altri che noi stiamo che non stiano troppo vicini ai camion, perché il quantitativo di esplosivo è grosso e quindi potrebbe essere molto pericoloso per i nostri fratelli rivoltosi.» Nel giro di pochi minuti i Tarspok vengono legati con le mani al volante, che viene bloccato con le ruote dritte, e di piedi ai pedali degli acceleratori. Altri rivoltosi hanno posto l'esplosivo in bella vista in coda al cassone del camion, cospargendo inoltre i due stessi mezzi con la benzina. Intanto il passavoce tra i due gruppi che stanno lottando contro i Tarspok è andato a buon fine, e non appena i due camion sono pronti per il loro microviaggio, due varchi enormi si aprono in mezzo ai manifestanti, lasciando perplessi i Tarspok. Due enormi pesi vengono poggiati sulle ginocchia dei Tarspok, che sono legati al posto di guida, il che provoca lo schiacciamento verso il basso di tutto il piede che è a sua volta legato all'acceleratore. I due camion lentamente iniziano a muoversi verso gli obiettivi. Dall'altro lato i Tarspok iniziano a far fuoco sui mezzi perché hanno capito che si tratta di una tattica dei rivoltosi. solo sul retro del camion, quindi non c'è pericolo che i proiettili possano innescare l'esplosivo. I Tarspok alla guida sono crivellati dai proiettili, ma i camion continuano il loro percorso. I loro colleghi, a difesa della torre M, visto che niente può fermare i mezzi, iniziano a correre verso l'interno della struttura, mentre quelli dall'altro lato della strada restano immobili, convinti di poter ancora fermare il camion diretto verso di loro. Nel momento in cui i mezzi sono arrivati quasi a destinazione, i due gruppi di rivoltosi si stringono verso il centro, eliminando il gap, ed iniziano a far fuoco sul camion che continuano il loro movimento. Quasi istantaneamente i mezzi saltano in aria con due enormi boati, accompagnati da un fortissimo spostamento d'aria che scaraventa a terra buona parte dei rivoltosi. Pezzi di Tarspok e della struttura della Torre M piovono dal cielo come una grandinata violenta che dura appena pochi secondi. Dall'altro lato, quello dei rinforzi Tarspok, i resti degli uomini topo scavalcano addirittura le strutture dei palazzi. Altri sono a terra tramortiti e quasi un migliaio sono arretrati correndo di nuovo verso la ferrovia. Thank you. la festa dei fiori continua. Casca Tromba d'Oro decise di dare un ricevimento. Il toro acconsentì volentieri perché così gli si offriva un'ottima occasione per prendere una sbornia madornale. I due amanti passarono minutamente in rivista i loro conoscenti per scegliere gli invitati, cosa che naturalmente non si svolse senza furiosi battibecchi degenerati poi a vie di fatto. Finalmente stabilirono di dividere gli ospiti in tre categorie: gli amici di Casca, quelli di Petka e infine gli amici comuni. Casca, come borsaiola, voleva che fossero presenti, in quella solenne ricorrenza, tutti i maestri e colleghi della sua specialità, e cioè Tosca la Gazza, il Mitra, Svoboda e il Signorino. Petka, invece, considerava giusto invitare Fisco e Carota. La terza categoria doveva comprendere Rana, il Mongolo, Filippo il Calvo, Kasik Moretzky e Gian Dente d'Oro. E inoltre, chiaramente, vennero invitate alcune ragazze del vicinato, perché altrimenti ci sarebbero state troppe poche donne. L'organizzazione della festa venne affidata a Caterina Sperda, nel cui alloggio, più grande di tutti quanti gli altri, doveva aver luogo il ricevimento. Casca e Petka non badarono a spese pur di fare bella figura. Da qualche tempo, infatti, la donna aveva fortuna nelle sue impresucce e di denaro ne guadagnava abbastanza. Allora, fin dal mattino, Caterina e Casca erano occupatissime in cucina a preparare, a friggere, a rosolare, mentre Petka il toro continuava a portare bottiglie su bottiglie di birra e di vodka in quantità da escludere che potessero venire a mancare durante il banchetto studiato, questo, in tutti i particolari. Quando ebbe finito la fornitura di vodka e birra, Petka venne adibito alla lavatura dei pavimenti e così il ladruncolo, come lo definì ironicamente l'amante, dovette poco dignitosamente per la sua professione togliersi calze e scarpe, rimboccare le brache e mettersi al lavoro. E mentre guazzava tutto indaffarato sull'impiantito strofinandolo con acqua e lisciva, cantava per di fiato. Casca era lì tutti i momenti a controllare il lavoro di Petka e, come al solito, non gli lesinava osservazioni piene di sarcasmo e di acredine. In condizioni normali non l'avrebbe fatto impunemente, perché il toro non aveva poi la pazienza di Giobbe e reagiva prontamente agli insulti, e ne sarebbe certamente nato un putiferio. Ma quel giorno Petka era di buon umore a tutta prova e nulla avrebbe potuto fargli perdere la bussola. Non rispose neppure alle contumeli di Casca e continuò imperterrito il suo lavoro attaccando la seconda strofa della canzone che cantava. Tutta la Komarovka era a conoscenza del ricevimento di Casca, benché l'intenzione di questa fosse di tenerlo segreto, cosa impossibile perché si era dovuto ricorrere a destra e a sinistra per chiedere in prestito piatti, bicchieri, posate e tutto il necessario. È così la notizia si sparse in un batter d'occhio nel mondo dei dritti veri e propri e in quello più vario e vasto dei lazzaroni. Nel caso che gli ospiti volessero fare due salti, venne invitato anche Peter Maniera, il noto violinista della Komarovka, che doveva il suo nomignolo alla sua abitudine di intercalare il discorso con l'espressione «in questa maniera o nell'altra». Peter non mancava mai nelle orge e nelle balere del rione, inseparabile dal suo collega Pappagallo, chiamato così per la sua mania di vestirsi a vivaci colori. E quindi anche il problema dell'orchestra era così risolto. La sera della festa, il plenilunio, era così chiaro che si sarebbe potuto leggere all'aperto. La luna col suo faccione sembrava guardare con curiosità gli uomini che si arrabattavano sulla terra. Caterina e Casca avevano finito da un pezzo i preparativi e ora tutte in ghingheri. Il banchetto era il loro punto d'onore. Non era gente qualsiasi quella che avevano invitata, ma quasi tutti ladri di classe, in grado, sì, certamente in grado di apprezzare le cose ben fatte. In un primo momento il problema delle donne era sembrato di difficile soluzione, poiché fuori della Caterina e di Casca, che in fin dei conti erano le padrone di casa e avrebbero avuto molto da fare, non c'era che la Tosca, e la festa rischiava così di diventare, anziché una serata di gala, un raduno maschile o altrimenti un consiglio di guerra, come l'aveva definito Caterina, che era molto pratica di riunioni mondane. E si mandò dunque a cercare Vige, la rossa, che, anche se giovanissima, aveva dimostrato molto talento come allieva taccheggiatrice. Poi, per la loro bellezza, benché non incontrassero affatto le simpatie di Casca, furono invitate anche Anna e Iane, chiamata l'Africane, per la loro carnagione bruna e i capelli crespi. Chiudeva la lista Lola, detta Mughetto, perché spesso e volentieri parlava della sua inguaribile passione per questo fiore, pensando che ciò le conferisse una lune di esteta raffinata. Nonostante queste volenterose aggiunte, però, Petka il toro non trovò giusto che la questione donne fosse liquidata senza che egli ci mettesse il becco. Beh, mi sembra che ce ne siano un po' poche di pulzelle. Basteranno per fare 4 salti, rispose Kashka con noncuranza. Io non sono della stessa opinione, insistette il toro, cocciuto come sempre. Per andare a letto assieme non basterebbero di certo, ma per una festa sono più che sufficienti. Tagliò corto Caterina Sperd e il toro dovette capitolare. Per primo fece la sua apparizione Fisco, un parvenu della mala, tutt'altro che ben visto dai dritti. Petka lo proteggeva sostenendo che la sua candidatura alla società dei dritti, ma in fondo non era che un oscuro ladruncolo nato e cresciuto nella Komarovka. Manco a dirlo, Kashka non gli riconosceva alcun diritto di intrufolarsi in mezzo ai dritti. Trovava che per aspirare a questo onore aveva al suo attivo un curriculum assolutamente insufficiente. Oltre a ciò non lo poteva soffrire perché non si curava affatto del suo aspetto esteriore e già 3 volte si era bisticciata col toro per quel fisco della malora. E anche questa volta il fisco si presentò male in arnese, con le scarpe infangate, la barba di parecchi giorni spettinato e per giunta già sbronzo. Nonostante ciò, Petka lo accolse con molta cordialità. Kashka invece gli voltò le spalle e andò a piantarsi davanti alla finestra, come se le interessasse molto, troppo, il vicolo Bondarevski. Ma Fisco non si perdette d'animo per questo e, alludendo al contegno della donna, intonò: guardando alla finestra per la via, vedo i dritti passar con nostalgia. Hanno gli abiti in ordine stirati e gli stivaletti nuovi verniciati. E dighi di e dighi da gli stivaletti vernicia. Avresti fatto bene a pulire le tue scarpe, lo aggredì sdegnosa ma un po' placata Kashka, che aveva un debole per il canto e la musica. A volte si commuoveva fino alle lacrime udendo gli stornelli ladreschi che Fisco, che rincasava, cantava a tarda notte. E Fisco, l'usignolo della Komarovka, che per quanto scalcinato aveva pur sempre una bellissima voce tenorile, non ancora rovinata dall'alcol, continuò a cantare. Aveva intuito che era quello il solo mezzo di cui disponeva al momento per ammanzire la Kashka. Guardo le mani, sembran gioielli, tanto son pieni di preziosi anelli. Ehi dighi dighi da, ehi dighi dighi da. Ma subito dopo, per fortuna, arrivò il violinista. Il suo aspetto ricordava stranamente quello di un becchino, se non addirittura quello di un cadavere ambulante, tanto che era rigido, austero e sparuto. Ciò nonostante aveva un'eccezionale forza fisica e un'agilità a tutta prova. Fisco diceva con ammirazione di lui: ah, sembra tutto pelle d'ossa, Peter, ma se si mette le mani addosso sei fritto, guai, guai a chi lo stuzzica, quello lì. Maniera, Peter posò delicatamente sul tavolo il suo violino e con aria cerimoniosa fece a Kashka gli auguri di rito. È il pappagallo, chiese la donna, non vedendo con lui il suonatore di fisarmonica. Beh, ha alzato un po' troppo il gomito oggi, adesso dorme per smaltire la sbornia, rispose il violinista allargando rassegnatamente le braccia. Ho fatto di tutto per svegliarlo, ma sfido chiunque a riuscirci quando in quelle condizioni. Io perfino ficcato del tabacco nel naso. Ma che? Beh, quando tornerà in sé verrà al galoppo, stia sicuro. Gli piace troppo Falbardoria. Ah, che peccato, disse Kashka con rammarico. Poi arrivarono Svoboda e Rana. Quest'ultimo aveva poca simpatia per il compagno che gli accusava di comunismo, ma Chissà come nella vita si erano sempre trovati vicini, o avevano abitato negli stessi covi, oppure si erano trovati insieme dietro le stesse sbarre. Svoboda, da quando lo avevano defenestrato dal Partito Comunista, aveva mostrato meno accanimento nel predicare la rivoluzione sociale, anche perché si era reso conto che i dritti fiutavano qualcosa di sporco da parte dei caporioni, che facevano carriera alle spese dei poveri gonzi. Da qualche tempo però, dopo che Svoboda aveva letto per caso qualche libello di propaganda comunista, l'antica passione si era riaccesa in lui: il comunismo. Gli sembrava un mezzo per risalire alla superficie dell'abisso in cui l'aveva sprofondato la vita di delinquente. Il suo culto per Marx, Carlo, consisteva nel ripeterne a orecchio ogni frasario volgarizzato senza capirci nulla. Rana invece era un tipico aristocratico della mala, un anziano di Varsavia. Il suo aspetto richiamava immediatamente le caricature che i bolscevichi fanno dei porci borghesi reazionari. Aveva le mani cariche di anelli d'oro, il panciotto attraversato da una catena d'oro e i gemelli d'oro ai polsini. E alla sua apparizione Kashka si alzò e gli andò premurosamente incontro. Egli, taciturno, compunto, volse sugli astanti uno sguardo noncurante ma onniveggente e subito sedette nel bel mezzo del divano come per mettere in risalto l'importanza della sua persona. Kashka gli si sedette accanto e i due incominciarono a parlare sottovoce di attualità del mondo dei dritti. Intanto Svoboda aveva radunato intorno a sé Petka, il toro, Fisco e Maniera. Tu, per esempio, diceva picchiando col dito sul petto di Fisco, se non fosse per la borghesia, non andresti in giro col vestito a brandelli. Dici davvero? Fece meravigliato Fisco, inarcando le sopracciglia e guardando interrogativamente Petka. Proprio così, credi a me. Ognuno dovrebbe avere almeno 3 vestiti per conto proprio. In quel momento una voce risuonò sulla soglia. Uno verde, uno giallo e uno rosso. Era Gian Dente d'Oro, che non perdeva mai l'occasione di prendere in giro le manie propagandistiche di Svoboda. Kashka si animò tutta. Era il secondo asso dello sport ladresco che la onorava con la sua presenza. Gian salutò tutti e si unì a Rana e alla padrona di casa, mentre Svoboda si rivolse di nuovo ai suoi ascoltatori che, non sapendo che fare di meglio, continuavano a far cerchio intorno a lui. Un vestito è per il lavoro, e anche questo, si capisce, deve essere decente. Un altro è per tutti i giorni, di stoffa buona e solida. E il terzo è per i giorni di festa e per le grandi occasioni. Dovrebbe essere molto chic. Ma allora in Russia nessuno potrebbe mai mettersi questo vestito, intervenne Maniera. E perché? Si meravigliò Svoboda. Beh, loro oramai non hanno più i santi, che feste vuoi che ci siano? I bolscevichi hanno altri santi diversi dai nostri, interloquì il toro, desideroso di far mostro della propria cultura. Per loro Lenin e Trotsky sono santi, come per noi Pietro e Paolo, non è così? Chiese, rivolgendosi a Svoboda. Beh, non esattamente compagni, rispose l'altro. Compagni ladri, corresse Gian Dente d'Oro, che dal suo posto d'onore aveva afferrato al volo la sua risposta. Svoboda allora era così infervorato che non gli badò e si buttò subito a capofitto in un'intricata dissertazione sulla dottrina marxista. I suoi ascoltatori lo seguivano senza batter ciglio, annuendo gravemente agli astrusi termini di sociologia che l'oratore sfoggiava in gran numero, usandoli a casaccio. Si sarebbe detto che capissero tutto benissimo, ma d'improvviso Fisco protestò energicamente. «Eh no, io non sono d'accordo!» Svoboda spalancò gli occhi su di lui. «Eh, perché?» «Beh, per quei 3 vestiti di prima. Perché sarebbe così, il vestito da lavoro solo per il lavoro. E vabbè, l'altro, passi l'altro, ma quel terzo, diciamo di prima classe, non va assolutamente. Io, per esempio, che frequento la carrozzabile soprattutto nei giorni di mercato, cioè di festa, mi sai dire come mi concia il mio vestito nuovo saltando su e giù da quei luridi carri? A me, per esempio, ci vuole una faccenda un po' così, e sollevò la falda della giacca lugara estinta. Disavowed. E questi erano Front 242 con il brano Tragedy for You. Ora, dopo la prima lettura di oggi di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki, si passa alla controinformazione. Si cerca di iniziare sempre con in Grecia sono accadute e stanno accadendo un bel po' di cose durante lo sciopero della fame di Nikos Romanos e anche dopo. Allora, ora leggiamo due azioni che riguardano un incendio ad una chiesa ed un'auto di società di sicurezza. Ad Eraclion, 9 dicembre 2014, incendiata auto di società di sicurezza. Nelle prime ore di martedì abbiamo regalato il fuoco ad un veicolo di proprietà della società di sicurezza Armaos. Questa società ha installato e gestisce sistemi di sorveglianza ed allarmi per la prigione di di Alikarnassos e anche per altri servizi pubblici e privati, banche, municipio, concessionari di auto di lusso, eccetera. La società di sicurezza sono parte integrante del complesso apparato repressivo e riproducono la visione della sicurezza dei cittadini, una vita di sicura schiavitù, di consumo e morte. Loro ci offrono la morte, noi rispondiamo con il fuoco e la polvere da sparo, finché i nostri pensieri, i desideri e le azioni diventano inseparabili. Forza ai compagni nei piccoli e grandi cantieri. Questa era la prima azione, invece ad Atene, 6 dicembre 2014, c'è stato un attacco incendiario contro una chiesa. Testo rivendicativo e azione precedente alla fine dello sciopero della fame di Romanos. Nelle prime ore del 6 dicembre abbiamo attaccato la chiesa di San Marina a Nea Filadelfia ad Atene con ordigni incendiari. Soddisfazione immediata delle richieste e o neppure il vostro Dio vi salverà. È meglio distruggere l'intero mondo che ostacolare uno spirito libero da soddisfare un bisogno che la sua natura chiede. Gocce prima della tempesta. E questa era la seconda azione avvenuta durante lo sciopero di Nikos. Una è il 6 dicembre, l'ultima lettera, quella di prima è il 9 dicembre, e Nikos ha finito lo sciopero il 10 dicembre, dopo che aveva minacciato nelle ultime ore di iniziare uno sciopero della sete, a cui lo stesso medico che era stato chiamato dai compagni e che lo visitava aveva dato poche ore di vita se avesse iniziato questo sciopero. Fortunatamente dopo hanno accettato le richieste di Nikos e quindi il compagno ora ha terminato il 10 dicembre ha terminato lo sciopero della fame. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Clan Wright, Band by Childrens, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Svoboda fece una smorfia dolorosa. Dio, come sei ignorante in materia, compagno caro. Impossibile sperare che tu ci capisca un H in queste cose. Io parlavo dei tempi in cui non sarà più necessario rubare, quando, cioè... Svoboda, a corto di argomenti, fece con le dita un gesto vago. Gian Dente d'Oro, che dal divano dove era seduto teneva le orecchie tese, gli venne in aiuto. Cioè quando Lenin e il suo compare Marx, Carlo, faranno venire in ogni paese una macchina speciale che dalla paglia e dalla crusca cava fuori salami, è vero, ne? Svoboda finse di non sentire e continuò a parlare un po' più a bassa voce perché quelli del divano non lo sentissero. Quello è un buon diavolo, disse di lui Gian rivolgendosi a Kashka. Ha le mani che valgono tanto oro quanto pesano e ha anche un ottimo carattere, ma si è ficcato in quella zucca balorda delle idee che sono più balorde di lui e nessuno che riesce più a schiodargliele. E gli passeranno col tempo, si intromise Rana con aria svogliata. Per uno che ha sul serio qualcosa in testa sa benissimo che sono tutte balle. Non per nulla. Sono uscite dal cottone di un filosofo. Del resto, quali sono le conseguenze di tale propaganda? Solo guerre, rivoluzioni e galere. Se tutti parlassero un po' meno e facessero un po' di più, la miseria scomparirebbe senza bisogno di scozzature e di rivoluzioni. Invece, quelle carogne mulinano le lingue e gira, finisce che si ammazzano. E che ammazzano? Chi non la pensa come loro, mentre loro si danno le arie da signoroni, si riempiono la pancia, comandano e fanno i loro porci comodi e basta. Beh, quello scemo invece crede che tutto quello che dicono sia oro colato, disse con una smorfia di compatimento Gian, indicando con il pollice Svoboda. Sono tanti a crederci perché ognuno va alla caccia di un po' di felicità, disse pensieroso e quasi rattristato il Rana. Ma a questo punto la stanza parve illuminarsi per l'arrivo di un trio d'eccezione. Tre ragazze giovanissime e graziosissime apparvero sulla soglia, Anna e Yana, le africane. Erano vestite di viola chiaro, mentre la più piccola, Lola Mughetto, indossava un vaporoso vestitino celeste. Il loro arrivo fu seguito da quello di Baran, di Carota e del signorino. Il mongolo si avvicinò subito al gruppo degli assi e a Kashka, raggiante di orgoglio. In mezzo a loro il Carota andò ad aumentare il numero degli ascoltatori di Svoboda, mentre Jan, mascherando con affettata disinvoltura il proprio impaccio, si trovò coinvolto nel gruppo delle fanciulle. Ritrovato dopo poco il dominio della propria timidezza di fronte a tante ragazze, si mise a esaminarle con più calma, chiedendosi quale fosse la più degna di essere corteggiata. Forse Lola Mughetto, così graziosa, intelligente e piena di brio, anche se un po' minuta e troppo bambina o acerba per i suoi gusti. Poco dopo giunse Mitra, il re dei borsaioli di Minsk, quello che a Varsavia era chiamato Trebbia per la sua veloce mitragliante balbuzie. Signora Caterina, pianta, l'abbiamo capito, lo interruppe Carota. Vuoi fare gli auguri alla signora? Non vorrei per questo farci subire un'ora del tuo trattatacaccaglio. Mitra si mise a ridere. Già, non sarebbe meglio che cantassi invece di parlare, gli consigliò il mongolo, facendo posto a Mitra, che si fermò presso il gruppo di Kashka, ossequiato da tutti come il classico maestro del borseggio. Ma chi fece veramente colpo fu Toshka la Gazza, che apparve in abito da sera, fatto fare secondo le indicazioni dell'aristocratica Sabina, apposta per quell'occasione. Lei si era anche fatta prestare da Sabina dei gioielli ed era andata dal parrucchiere, che le aveva fatto un'acconciatura molto ricercata. Era certamente una donna eccezionale, non solo per la sua bellezza e la sua grazia, ma anche per la brillante intelligenza che la distingueva tra tutte. Diede un cordiale abbraccio a Kashka e salutò con signorile compostezza tutti i presenti con un grazioso cenno del capo, poi si unì anche lei al gruppo degli assi. Yan non l'aveva mai vista così bella e affascinante. Questa sì che sarebbe un'amante, pensò, ma sapeva benissimo di non potersi illudere perché Tosca non voleva sapere di ragazzi così giovani. E allora fu il toro Petka che si accostò rispettosamente al gruppo in mezzo al quale troneggiava rossa dall'emozione Kashka, felice come non era mai stata. «Beh, che cosa vuoi?» si sentì apostrofare in malo modo dall'amante. «Beh, Caterina ha chiesto se non sarebbe il caso di incominciare a servire». Pareva che il toro masticasse del vetro, tanto che le parole gli uscivano rotte dalla strozza. «Sei sempre in tempo a innaffiarti le budella», scattò Kashka guardandosi in giro come se volesse dire «Vedete come lo faccio filare, non crediate che io abbia stima di questo tanghero». Il toro non sapeva più dove guardare, tanto che era confuso. «Come vuoi», balbettò rosso con un papavero con la fronte madda di sudore. «Ma non è che io...» «Del resto non ci siamo ancora tutti», fece Kashka, già più rabbonita. «Eh beh, si può sapere chi manca?» chiese Gian. «Filippo, il calvo», salmodiò Kashka con voce melata. «Oh, quello lì è sempre in ritardo, non vale mica la pena di aspettarlo», disse Rana. «Anch'io la penso così», aggiunse il mongolo. «Benissimo allora», disse Kashka e si alzò in piedi. Gli ospiti d'un colpo si avvicinarono al tavolo e occuparono i posti senza attendere che venissero assegnati. Ora tutti erano seduti e si guardavano l'un l'altro con curiosità, ma l'attenzione era concentrata soprattutto sulle donne, chiaramente, con diversa curiosità, l'uomo cercando nelle donne i pregi, le donne cercandosi tra loro i difetti. Caterina si dava un grande affare a indicare i posti liberi a chi era ancora in piedi. Da un lato della tavola si erano seduti tutti gli assi, incastonando tra loro come pietre preziose la Tosca, Jana, Kashka e Mughetto. E quando finalmente tutti furono sistemati, entrò Vige. Una magnifica ragazza dei capelli fulvi e la pelle deliziosamente bianca, Kashka le indicò il posto accanto a Gian Dente d'Oro. Jan, al canto suo, si trovò tra Carota e Petka il toro, e quando la confusione cessò, i bicchieri vennero finalmente riempiti di vodka e, come se avesse atteso proprio questo momento per fare la sua apparizione, Filippo il Calvo comparve sulla soglia. E indossava un abito scuro e, muovendosi, diffondeva intorno a sé un leggero profumo di acqua di Colonia. Le sue guance apparivano lucenti per la cura con cui si era appena rasato e lo si sarebbe detto inamidato dalla testa ai piedi, tanto che il suo aspetto era impeccabile. «Un vero manichino», pensò tra sé se la Tosca. «Oh, salve alla bella compagnia!» esclamò Filippo, salutando i commensali con disinvoltura. «Auguri e ossequi alla graziosa padrona di casa!» Baciò la mano di Kashka, gesto che i dritti hanno ripudiato dalla loro società qualificandolo da Merli. Poi fece un inchino cerimonioso alle signore e soltanto dopo andò a stringere la mano agli amici. Rana strizzò impercettibilmente l'occhio guardando il mongolo che gli rispose con un sorriso. L'uno e l'altro avevano molta stima di Filippo come lato di gran classe, ma trovavano ridicole le sue maniere pretenziose. «Si dà delle aree da conte», dicevano di lui, e se non fosse stato un dritto fatto il loro zimbello. Ma Filippo apparteneva di pieno diritto alla loro società e si era sempre dimostrato, in libertà e in prigione, un ottimo collega. Il suo aristocraticismo era considerato come un'innocente mania. Kashka lasciò il suo posto per cederlo a Filippo, ma questi si oppose con fermezza e andò ad occupare l'unica sedia libera in fondo alla tavola. Subito, però, si vide trasportato di peso tra gli assi che spostarono le sedie in modo da far posto anche a lui. E così venne a trovarsi tra Kashka e Baran. «Beh, io direi che è giunta l'ora di vuotare i bicchieri, altrimenti la vodka potrebbe prendere il sapore del vetro», propose Rana. Allora, forse ora ci siamo, mi sa che era caduta la connessione. Abbiamo letto i due testi, uno riguardante la compagna Tamara Zulfarías Vergara, che è stata punita perché ha trasgredito delle regole interne del carcere, a cui gli sono state, non rileggo i testi perché ora non sappiamo quanto è caduta la connessione, poi nel caso vengono aggiunti dopo nel podcast. Volevamo sottolineare il fatto della differenza di condizione tra Nikos Romanos, che attraverso il suo gesto di lotta, di sciopero della fame, ha costretto e ha trovato anche la solidarietà pratica in Grecia e non solo in Grecia, e la condizione invece cilena, dove ci arrivano sempre più notizie, comunicazioni e conferme di un atteggiamento omicida da parte dello Stato cileno, non solo sulla negazione dei pasti, sebbene, voglio dire, in galera si sa che si è sotto la volontarietà di chi ti costringe, ma soprattutto quelli decisi da loro, decisi, quindi, e poi anche sulla ultima anche notizia che sono state date da radiazione sul lasciar morire un compagno, una persona, che poi dopo legge, che... no, un compagno, punto anche un compagno, però una persona, non era un compagno, no, nel senso, uno che si era preso la borsa, è stato scambiato per un anarchico, è stato lasciato morire dalla polizia con il zaino a terra, con complicità di giornalisti vari pendolari che filmavano l'agonia di una persona morente. E invitiamo soprattutto tutti i compagni che ci ascoltano e che ci ascolteranno a considerare il Cile, insomma, consideriamo lo Stato cileno e le sue emanazioni come qualcosa di problematico. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Jack dead, all of our tests are dead, he's dead, he had no responses from neurologic death. Il consiglio di Rana fu seguito da tutti con entusiasmo, dopodiché i bicchieri vennero di nuovo immediatamente riempiti e immediatamente vuotati. Il violinista Peter beveva più degli altri, mentre Caterina, sperda, si aggirava servendo gli ospiti e invitandoli a bere. Man mano che serviva in tavola le portate, essa cercava di conservare i migliori bocconi per il suo ex inquilino ed ex amante Oleg Barana, detto il mongolo, al quale si sentiva ancora legata da stima ed affetto. Le donne fingevano moderazione nel bere, schermandosi quando veniva loro offerta dell'altra vodka. Solo la Tosca riusciva a tenere validamente testa agli uomini, riempendosi il bicchiere a ogni giro di caraffa, e mangiava anche forte, badando però a salvare l'estetica e a non dare l'impressione di ingorda, anche se era evidente che l'appetito non le mancava. Filippo il Calvo, invece, pareva celebrasse un rito. Manovrava forchetta e coltello in modo da mettere in mostra il più possibile uno stupendo anello con brillante che portava al mignolo. Parlava animatamente con Kashka e civettava, palesemente, con Vige. Quest'ultima cosa divertiva alquanto Gian e la Rana. La ragazza si mostrava benevola con lui e, guardandolo di sottecchi, gli sorrideva in modo incantevole, mandando in visibilio il vecchio ladro che aveva sempre avuto un cuore tenero per il gentil sesso. Ah, se non avessi questa maledetta calvizie, pensava col suo più vivo rammarico. Jan, seduto tra Carota e Petka, non sapeva a chi rivolgere la parola, perciò mangiava e beveva, beveva e mangiava, ascoltando intanto le conversazioni. Avrebbe volentieri fatto a cambio di posto col Toro per avere alla sua destra Anna, una delle due africane, ma non osava mica chiederglielo. Mentre nell'alloggio di Caterina Sperda si svolgeva la festa in onore di Kashka Trombadoro, Isai, il famoso beveva insieme ad altri quattro compari nel covo di Cagna Nera. La notte prima, la combriccola aveva tagliato a due carrozze di proprietà dell'ebreo Sclam Goji i soffietti di pelle, togliendo anche le gomme alle ruote, e avevano venduto tutto alla ricettatrice, e ora, sì, facevano bisboccia tracannando la vodka. La Cagna Nera, a dir la verità, si sarebbe volentieri sbarazzata di loro. Una volta concluso l'affare, avrebbe voluto non aver più nulla a che fare con quei manigoldi, perché più di una volta si era già trovata per colpa loro nei guai, ma temeva che le giocassero qualche brutto tiro se li avesse trattati male. Un tempo Isaia aveva fatto il garzone di macellaio, ma, sorpreso ogni volta a rubare la carne, era stato sempre buttato fuori dal negozio pochi giorni dopo essere stato assunto, e finì alla stazione come facchino, ma anche lì non durò a lungo. Rubò qualcosa a un viaggiatore e fu messo dentro e ci rimase per qualche mese. Ora era il capoccia dei lazzaroni della Komarovka. Alto di statura, nerboruto e dotato di una formidabile occhi piccoli, cattivi, mobilissimi, e un eterno ghigno sardonico sulle labbra. Si considerava una testa fina, ma era altrettanto stupido quanto forte. A sentir lui era indiscutibilmente un dritto. Non aveva forse rubato e non era stato forse in galera anche lui? Ma i veri dritti non volevano avere a che fare con lui per la leggerezza con cui si buttava nelle imprese, mettendo in serio pericolo anche i compagni. Era un'abilità, la sua, buona per i furtarelli nei cortili e nei magazzini. Durante un interrogatorio aveva fatto il nome dei suoi soci e questo era bastato a screditarlo definitivamente agli occhi dei professionisti. Da quel giorno nessuno aveva voluto più saperne di sei. Tuttavia, egli aveva un vasto campo d'azione alla Komarovka. Si era formata una banda propria, una batteria, e scorazzava nel sobborgo, avvelenando la vita a tutti. Rubava persino capre, polli e patate nelle stalle e negli orti. Oltre a ciò, il gruppo di lazzaroni di Sai terrorizzava gli altri raduncoli, soprattutto i grattacarri, affrontandoli quando se la davano a gambe col bottino e costringendoli a pagare una taglia. Quasi ogni giorno Isai provocava baruffe e attaccava briga, senza alcun motivo plausibile. Non aveva rispetto di nessuno e neppure di se stesso. Poco gli importava di prenderne un sacco e una sporta. Tutti i pretesti erano buoni per provocare chiunque gli capitasse tra i piedi, ma se presentiva che sarebbe stato battuto, girava a largo. Non si azzardava neppure ad aggredire i dritti, sapendo che non erano gente troppo facile a lasciarsi intimidire e che all'occorrenza sapevano manovrare a perfezione il serramanico e finanche la rivoltella. Un anno prima Isai aveva avuto un pericoloso concorrente nella Komarovka, un certo Cosma Spilungone, che i genitori avevano scacciato di casa in seguito alle sue ribalderie. Cosma cedeva in forza fisica a Isai, ma era un formidabile pugilatore. Dopo la prima zuffa, Isai era stato strappato a stento dai compagni dalle mani di Cosma, più morto che vivo, e allora giurò di vendicarsi. E qualche tempo dopo si recò dall'avversario con una bottiglia di vodka sotto il braccio e gli fece il seguente discorsetto: «Senti, siamo in due qui, te e me. Perché dobbiamo attaccare briga? C'è posto per tutte e due alla Komarovka e di merli ce ne sono abbastanza, no? Beh, beviamo la nostra amicizia e facciamola finita. Chissà che non avremo bisogno l'uno dell'altro». E Cosma, che era abbastanza credulone, cascò nella trappola. Isai riempì i bicchieri fino all'orlo e disse solennemente: «Alla nostra sempiterna amicizia». Cosma bofonchiò che ci stava e ingoiò d'un fiato il contenuto del bicchiere. Isai si affrettò a riempirglielo ancora: «Bevi, fratello, alla tua salute». Quando Cosma, già un po' intontito, alzò di nuovo il capo per portare il bicchiere alle labbra, Isai balzò in piedi e con tutta la sua forza gli vibrò un colpo pauroso sulla mano che reggeva il bicchiere, facendogli fracassare sulle labbra e sui denti. I frantumi di vetro si conficcarono nelle gengive, nella lingua e nelle guance di Cosma. Il sangue sprizzò e l'uomo si abbatté con un gemito. Allora Isai gli saltò addosso e si mise a pestarlo alla cieca con un peso da un chilo che aveva portato con sé nascosto in una tasca del cappotto. Tutto sanguinante e privo di sensi, Cosma venne trasportato all'ospedale. Aveva il volto orribilmente massacrato, i denti e le costole rotte. I dottori dovettero faticare parecchio per rimetterlo insieme e rimase parecchio tempo all'ospedale, e quando ne uscì aveva il braccio destro immobilizzato e zoppicava da ambo le gambe. E così Isai si era disfatto del concorrente. Ora sedeva col suo stato maggiore dalla cagna nera e cioncava più non posso. Aveva già la testa annebbiata quando uno dei compagni incominciò a parlare del ricevimento in casa di Caterina Sperd. Bisogna vedere che roba! I tavoli reggono appena il ben di Dio che c'è sopra, le cornie d'ogni specie, arrosti, polli, salumi, fricasseur. Accidenti, di vodka poi manco a parlarne, dice che ce n'è da nuotarci dentro. Non manca neppure a noi la zozza, no? D'accordo, sì, d'accordo, ma non è lo stesso. Là hanno roba chic, rum, vino, liquori, tutto. E beh, chi c'è lassù, chiedi, sai? Tutti dritti più in gamba. E naturalmente qualcuna delle nostre ragazze, per esempio le due africane, Vige e Yana. È un onore passare la serata in una compagnia come quella. Isai si rabbuiò d'improvviso, rovesciò nella gola il bicchiere colmo e disse: onore o no, io, se voglio, porterò via la mia Vige di là. La ragazza dai capelli rossi era la nipote di Isai, ma né il padre né la madre di lei ci tenevano a quel parentato e quando Isai andava da loro lo ricevevano molto freddamente. Questo lo dici tu? Che diritto hai di impedire alla Vige di divertirsi come le pare e piace, a parte il fatto che offenderesti la padrona di casa e gli ospiti? Io me ne frego di tutti loro e come è vero che sono Isai, ti dico che porterò via la Vige. Il diritto me lo faccio io come mi gira, hai capito, zio? Non voglio che bazzichi con quella gentaglia. E uno dei soci di Isai, ancora più maligno e furbo di lui, cominciò a stuzzicarlo con il chiaro intento di solleticare il suo amor proprio e magari, sì, provocare una violenta baruffa. A parole fa il gradasso, gli disse. Vorrei vedere se hai il fegato di andarci sul serio, finiresti per beccarle come... Isai, toccato sul vivo, scattò. Io? Non ho fegato io. Se me lo ficco in testa, vedi che... se non ci vado. Non arrischiarti, giovanotto, potresti pentirtene, sai, disse qualcuno. Beh, cerchi di buttarmi il pepe sulla ferita, eh. Non ti scalmanare, non fare il galletto, oh pannezza. Ti parlo da compare, io. Non hai sentito che sono tutti dritti in gamba lassù? Ti potrebbero cambiare i connotati, sai, allora a questo punto schiumava. Se mi fan saltare la mosca al naso, sono capace di scappare il cranio a tutti quanti, sai? Figurarsi che paura mi fanno quelli là. Credo di essere più dritto io di loro. 5 volte sono stato in galera e sta pur certo che si sentiranno venire la tremarella vedendomi comparire. Io non ho fifa di nessuno. E andiamo, Isai, adesso sì che le spari grosse. E io ti dico che ci vado subito e che ritornerò qui con la Vige, disse Isai furioso e infatti si alzò ubriaco, fradicio. State qui ad aspettarmi voi, ve la porterò qui e poi l'accompagnerò da sua madre perché le lisci la pelle a quella sgualdrina che va a far baldore con quei ladruncoli fottuti. Suo padre non vuol che la ragazza vada con simile gentaglia e vi dico io che suo padre sa quel che vuole. Ci ho detto, si diresse verso la porta e sparì. Va proprio a cercarle col lanternino, sto scimonito, disse uno dei rimasti. Vorrei proprio che lo legnassero ben bene, così imparerebbe a fare il prepotente. Qualche pedata nel sedere non gli farà certo male alla salute e la smetterà di ficcare il naso nelle faccende che non lo riguardano, come se fosse lui il nababbo del quartiere. Nessuno si mosse per seguire, sai, preferivano che se li sbrogliasse da solo i suoi pasticci, se ne fregavano di quello che gli poteva capitare. E questi erano Placebo Effect con il brano Move. Ora si ritorna alla controinformazione, l'avevamo anticipato prima, subito dopo la caduta della connessione. La notizia che ora andiamo a leggere si va in Cile, a Santiago, sull'attacco alla sede dei carcerieri e il ragazzo lasciato morire perché pensavano fosse anarchico. Il testo è stato ricevuto tramite mail da Noticias della Guerra Social, lo andiamo a leggere. Durante l'alba del 25 settembre del 2014, un'esplosione ha scosso il quartiere Yungay, in pieno centro storico di Santiago. L'esplosione ha causato gravi ferite e ustioni a Sergio Lanscron, divenuto era stato accusato di aver installato l'ordigno esplosivo ed è stato lasciato morire dalla polizia e fotografato agonizzante da parte del personale medico. Prima di morire, e anche se agonizzante, la polizia proibì che il vicinato lo soccorresse perché trattasse di un anarchico e decisero con il loro potere di realizzare un'autopsia in vita, estendendo ed acutizzando la sua agonia. Col passare dei giorni si scoprì che Sergio Lanscron era un tossicodipendente e anche povero, che semplicemente aveva raccolto e trasportato la borsetta per circa 10 minuti dal posto in cui l'aveva trovata. Dopo aver controllato le telecamere di sicurezza per mostrare l'evidenza, la polizia e la procura resero noto che due anonimi avrebbero collocato l'ordigno esplosivo composto da un estintore ripieno di polvere nera attivato mediante un sistema elettrico. L'ordigno sarebbe stato posizionato accanto alle porte dell'ANFUP, Associazione Nazionale di Funzionari Penitenziari, intorno all'una di notte, posto dove furono trovati anche dei volantini su cui c'era scritto: «Carcerieri, consideratevi sempre un bersaglio delle nostre azioni. Non avete nessun motivo per camminare e dormire tranquilli. Qualunque aggressione a prigionieri rivoluzionari in guerra avrà l'immediata risposta alla nostra azione insurrezionale. Fuoco e polvere nera contro il potere e ogni forma di autorità e dominazione». Un paio di minuti dopo, Sergio Lanscron sarebbe passato da quelle parti e raccolto l'ordigno esplosivo per trasportarlo per un paio di isolati, quando questo detonò provocandogli gravi feriti e quindi la morte. Fino al momento, oltre ai volantini, nessun gruppo ha rivendicato l'attacco esplosivo, mentre il governo ed i carcerieri cercavano i responsabili, utilizzando la legge antiterrorista, la famiglia da parte sua accusa lo Stato per aver negato assistenza medica e per aver offeso Sergio nonostante fosse agonizzante. Poi ci sono ulteriori informazioni, c'è sull'azione, c'è un link sul sito, ci cliccate sopra e potete andare a leggere. Noi abbiamo pubblicato giusto il volantino che è stato lasciato sul posto e poi alcune immagini che ci fanno avere i compagni di Noticias della Guerra Social. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono a Terry Teenage Riot, il brano Reset, e poi dopo si torna qui con Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. We'll be right back. E intanto in casa di Caterina Sperda il banchetto era giunto al suo apice. Gli ospiti bevevano, mangiavano e stavano allegri. Alcuni cambiavano posto secondo le simpatie. A un certo punto Filippo il Calvo si trovò di fianco alla vigia e subito incominciò a sciorinarle ricercati complimenti con grande dispiacere di Kashka, che quasi quasi ne era gelosa. Jan occupò il posto di Petka il Toro accanto ad una delle africane e vennero fatti dei brindisi alla salute delle gentili signore, dei padroni di casa e di tutti i dritti presenti in generale. A un tratto saltò su Svoboda e, alzando il bicchiere, proferì solennemente: «Viva la terza internazionale! Oh, di internazionale Solidarität!» Tutti lo guardavano stupiti e alcuni non capivano neppure a cosa volesse alludere. E in mezzo al silenzio generale si udì la voce di Gian Dente d'Oro: «Ah, non badategli! Gli passerà, di solito è un tipo tranquillo, ma forse adesso ha qualche rotellina fuori posto. Oh, Dio cane! Non escludo che si tratti di un sintomo di qualche malattia, forse del delirium tremens, so che so io, della febbre gialla, o forse rossa, direi», sbottò Rana. Svoboda non si confuse per niente per l'accoglienza fatta al suo brindisi e cercò anzi di illustrarlo. Noi che siamo proletari, attento a non strozzarti con una parola difficile», lo interruppe il mongolo. «Noi proletari, dobbiamo essere compagni Lenin e Trotsky, che sono i capi spirituali della terza internazionale. Sono loro che ci danno la possibilità». E allora Gian a questo punto balzò in piedi e, imitando il tono patetico di Svoboda, continuò alzando la voce per ridurre al silenzio l'oratore: «La possibilità, dico, di mangiare la crusca, di vivere in prigione e di vestirci, invece che dei soliti abiti di manifesti, di labari e di stendardi». Intanto Peter Maniera accordava il suo violino nell'angolo vicino alla porta. Voleva suonare qualcosa agli ospiti prima che si desse inizio alle danze e incominciò con una marcetta piena di brio. Si vedeva che era la sua passione suonare. Le conversazioni si interruppero come per incanto e la sala divenne silenziosa. Proprio nel momento in cui le ultime battute del pezzo stavano spegnendosi, la porta si aprì e Isaì entrò con passo pesante nella sala. Maniera si interruppe e abbassò il violino. Il nuovo venuto volse in giro uno sguardo ebete, riconobbe dei conoscenti e si sentì alquanto impacciato, notando che tutti, sì, proprio tutti, erano ben vestiti e tenevano un contegno da persone per bene. Rimase fermo sulla soglia con gli occhi spalancati senza proferir parola. «Chiudi la porta!» gli gridò Kashka, sgradevolmente sorpresa a quella improvvisa apparizione. «Ah, poveracci! Come può conoscere gli usi civili? È cresciuto in una stalla con una mucca per balia!» fece Gian Dente d'Oro. La risata che fece eco alla battuta di Gian sembrò risvegliare Isaì. Fece lui ancora un passo avanti e, puntando l'indice su Vige, disse cupo: «Fila a casa! Tu, subito!» «Perché?» chiese la ragazza stupita. «Perché ti cerca la mamma!» «Ma non è vero! È lei che mi ha lasciata venire! Non impicciarti tu di quello che faccio io e di come passo la sera! Ti dico, sì, di venire con me, altrimenti, guarda, che son guai!» gridò Isaì, i cui occhi avevano lampi minacciosi. «Ma neanche per sogno! Vattene, tu, piuttosto!» E fu a questo punto che Filippo il Calvo credette opportuno di intervenire. «La signorina qui presente, maggiorenne, sa il fatto suo. Vuol dirci invece che cosa desidera lei da lei?» «Voglio, sì, ricondurla a casa perché io sono suo zio e ora vorrei farle anch'io una domanda, signor Filippo». Isaì si mise i pugni sui fianchi. Con fare petulante continuò: «Vuol dirmi, sì, di grazia, Dove sono andati a finire i suoi capelli? Un colpo di vento o forse un letto troppo corto per cui sfregava continuamente la testa contro la spalliera? Con la miglior buona volontà del mondo non mi riesce di vedere neppure il più piccolo pelo né la più tenera peluria lì sopra. Tutti sorridevano divertiti, nessuno sospettava che la faccenda sarebbe potuta di lì a poco finir male. Filippo, punto sul vivo, ma sempre contegnoso come imponevano le regole della buona società, rispose tranquillamente: del pelo ne hanno in abbondanza anche le scimmie, ma non così si può dire della buona creanza. Ma chi è quel tipo? Chiese ad alta voce Rana, squadrando Isaia dalla testa ai piedi come fosse un fenomeno. Casca non seppe più dominarsi e, come punta da un ago, balzò verso Isaia e gli indicò la porta. Fuori di qui! L'uomo sogghignò. Non ci penso neppure, a meno che non mi venga dietro la vige. E io ti dico invece che te ne andrai subito, muggì il toro alzandosi da tavola e muovendo verso Isaia. Isaia che si volse verso di lui. Tu faresti meglio a coprirti il grugno con qualcosa, sei così brutto che mi vengo da vomitare a guardarti. Allora già Dente d'Oro e il mongolo si alzarono, incuriositi dal battibecco, sentivano sì che c'era odore di polvere da sparo nell'aria. Isaia fece un passo indietro. Vige, ti dico per l'ultima volta, vieni a casa! Mentre Isaia faceva un altro passo verso la porta a ritroso, si imbatté in maniera che gli diede uno spintone e, afferrando la bottiglia di birra che si trovava sul davanzale della finestra, gli sferrò un tremendo colpo sulla testa. La bottiglia andò in pezzi. Isaia indietreggiò ancora tutto grondante di birra e sangue. Il colpo, lungi dal tramortillo, sembrava non avesse ottenuto alcun effetto. Lui sì che aveva la testa dura. Isaia tuttavia si volse con stupore verso Maniera. Ma lei perché mi ha dato questa botta in testa? Vorresti che mi rovinassi la mano? Non ce l'ho mica per correggere le idee che hai in quella tua stupida zucca, ma per suonare il violino. Ma nonostante ciò Maniera gli sferrò un pugno, colpendolo al mento, e Isaia finalmente barcollò, ma a sua volta vibrò un colpo a Maniera che però riuscì a scansarlo. Il mongolo con un balzo si interpose tra i due e, afferrato il braccio di Isaia, alzato di nuovo a colpire, lo torse indietro in una stretta di ferro, poi lo fece rinculare verso l'uscio dove Petka il toro con un calcio lo scaraventò fuori sul pianerottolo, buttandolo poi con un altro spintone giù, fino a giù dalle scale. E laggiù Isaia scattò in piedi e, senza guardare in su, si precipitò in strada, seguito da Petka che voleva vedere dove si sarebbe diretto. Il vicolo Bondarevski era illuminato dalla chiara luce del plenilunio e così Petka poté vedere l'intruso allontanarsi di corsa e sparire in una buia viuzza laterale. E allora tornò a raggiungere gli ospiti. Ma si può sapere chi è quel marrano? Stava chiedendo a Rana. È un merlo o un dritto? È uno scalzacane che va a rubare la paglia sotto il muso dei cavalli. È stato dentro? Ah, sì, è stato dentro per aver rubato un mastello una volta e un'altra volta per un sacco d'avena, disse Carota. Aggiunse: è un bastardo che va a frugare persino negli immondezzai. Del resto è il posto più adatto per lui, l'immondezzaio. Beh, robusto come un bue, disse Rana. Sì, ma intelligente come un asino, aggiunse il mongolo. Casca era talmente sconvolta che per un po' non riuscì a calmarsi. Ma chissà perché è piovuto qui come l'acqua nella latrina, senza che nessuno l'abbia tirato la corda. Cane, maledetto, con tutto il rispetto per i cani. Già, ma è stato trattato proprio come un cane, disse Svoboda. Quando la società sarà trasformata, tipi come questi non ce ne saranno più. Rana torse la bocca in un sorriso di sprezzo. Si capisce. Diventeranno tutti degli angioletti per merito della cieca. Tuttavia lo spiacevole intermezzo fu presto dimenticato e la festa riprese con la stessa foga di prima. Tutti, sì, erano tornati di buon umore. L'unico che stentava a rassegnarsi era Filippo, la perfida allusione di Isaia alla sua calvizie gli aveva avvelenato la serata, facendogli andare di traverso la vodka e trasformarla in un sangue cattivo. Eh sì, un sangue amaro. Questi erano Xenotype con il brano Save Me. Ora si ritorna alla controinformazione con ancora un attacco incendiario contro il municipio e veicoli delle poste della società di energia elettrica in Grecia. Allora, testo rivendicativo ed azioni sempre precedenti alla fine dello sciopero della fame del 10 dicembre di Nikos Romanos. Allora, il testo dice: il compagno anarchico Nikos Romanos ha iniziato lo sciopero della fame il 10 novembre chiedendo permessi di uscita dal carcere per motivi universitari, le leggi del sistema. Come segno di solidarietà attiva, i compagni Yannis Mialidis, Andreas Dimitris Bourzikos e Dimitris Politis di Elias Karaduman hanno iniziato anche loro lo sciopero della fame. Nikos Romanovski ha scelto di usare un estremo mezzo di lotta usando il proprio corpo come una barricata e la sua volontà senza compromessi e il desiderio di una boccata di libertà fuori dalla condizione sterminante dell'imprigionamento come una tomba. Senza bisogno di dirlo, siamo con lui, con le azioni e supportiamo la sua lotta fino alla fine, con ogni mezzo possibile, visto che riconosciamo anche noi le condizioni totalitarie e vendicative che fanno nascere e riproducono bordelli delle carceri. Per questo motivo, all'alba di martedì 9 dicembre, abbiamo trasformato i nostri desideri aggressivi in azioni che inviassero segnali incendiari di solidarietà a Nikos Romanovs e al resto dei nostri compagni. Nello specifico, abbiamo piazzato un congegno incendiario con bombolette di gas all'ingresso del municipio di Kasariani. Abbiamo incendiato due veicoli dell'ELTA, servizio postale greco, e un veicolo della DEI, compagnia pubblica di elettricità a Sepolia. Riassumendo, questa lotta ha provato la pressione politica essenziale fornita dalla multiforme e multipressione ondata di solidarietà legata ed allargata in breve tempo. Miglioriamo, compagni, niente meno di tutto, il collo o nulla. Alcuni banditi anarchici. E questo era il testo dell'azione in solidarietà con Nikos Romanovs e compagni che avevano intrapreso in forma di solidarietà lo sciopero della fame insieme a lui. Lo ricordiamo, sono tutte azioni che comunque sono avvenute prima del 10 dicembre e comunque i testi arrivano ora, perché comunque alla fine tra posta o mail comunque ci vuole il tempo. Ma ben vengano le rivendicazioni, e soprattutto ben venga la solidarietà attiva pratica. E questo era il testo di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano degli Acumen Nation, Gentrify, è un gioco di parole quello che fanno gli Acumen Nation, DJ Gentrify, che si legge Gentrify. E poi dopo torniamo qui con Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Intanto Isaì, dopo aver attraversato la Komarovka come un forsennato, infilò diretto la carrozzabile di Logoyoshk e di Borisov. E poiché gli rimaneva ancora parecchio danaro dalla vendita dei soffietti e dei cerchioni di gomma rubati la notte precedente, si trovò, e si trovava ancora, ora in possesso di una discreta somma. Trovò di nuovo i suoi compari ubriachi fradici e ne approfittò per raccontare loro delle frottole circa il contegno dei diritti che banchettavano dalla sperda. Questi li avevano insultati tutti quanti, avevano anche osato minacciarli. Isaì incitò i compagni alla vendetta insistendo sul fatto che i diritti corrompevano le ragazze del quartiere che di diritto spettavano allora, compagni di Isaì, perché anch'essi vi abitavano. E questo argomento, insieme ai fumi dell'alcol, fu di effetto decisivo. I quattro lazzaroni decisero all'unanimità di non lasciare impuniti quei presunti insulti. Già, eccitati dalla vodka e ripromettendosi di ingollarne dell'altra appena tornati dalla spedizione punitiva, l'intera cricca si avviò con bottiglie sotto il braccio verso la periferia per reclutare dei volontari pronti a vendicare l'offesa fatta all'onore del sobborgo. Si separarono, dandosi appuntamento all'angolo del vico Bondarevsky, con l'intesa che ognuno avrebbe portato con sé quanti più compagni fosse riuscito a scovare. Ne fu una cosa difficile, dato che tutti quanti erano nati e cresciuti nel sobborgo e già un'ora dopo, al luogo di radunata, passeggiavano in su e in giù tre gruppi di uomini. Ma mancava ancora Isaì con i suoi cagnotti. Ma anche lui non si fece attendere troppo. Arrivò con sei uomini, tutto sbracato ed arruffato, ma ormai quasi lucido. E l'aria fresca della notte gli aveva fatto bene. Erano questa volta in 17. Tutti manigoldi della peggior specie, ben noti come i più loschi figuri della Komarovka. Si sarebbe potuto rimandare di qualche ora la vendetta cercando di formare un gruppo più numeroso, dato che alcuni non erano stati trovati in casa, ma dopo un breve conciliabolo Isaì concluse che il loro numero era sì più che sufficiente allo scopo, tanto più che tutti erano armati di bastone e avrebbero assalito di sorpresa gli ospiti di Caterina Sperda. Isaì condusse la sua banda nei pressi di un piccolo laghetto lì vicino, dove ognuno ricevette un quarto di vodka e un pezzo di salsiccia. Quando ebbero finito di bere e di mangiare, Isaì si alzò e, tartagliando, iniziò la sua solenne concione. Fratelli, noi, sì, ci conosciamo molto bene fra noi, ognuno fa la sua vita, ma siamo tutti legati da una sincera amicizia, non è così forse? Ed ecco che ora certi cafoni vengono a mettere il naso nella nostra zona. Se fossero dei nostri, gente della Komarovka, pazienza, ma sono vagabondi di ogni parte del mondo e ci portano via le ragazze più in gamba, lasciandoci, sì, lasciando a noi quelle più racchie. E anche il lavoro più redditizio sono loro a soffiarcelo. È vero o no? Alcune voci rare si levarono in appoggio alla sua filippica. Verissimo, è proprio così. Le nostre ragazze se le godono loro e a noi ci lasciano la bocca asciutta. È una storia che deve finire. E Isaì continuava. Ci disprezzano come se fossimo cani. Ci mettono sempre i bastoni tra le ruote. Adesso ci si presenta l'occasione buona per fargliele pagare tutte in una sola volta. D'accordo! Gridò l'anguilla, a cui non sembrava vero di dover menare le mani. E ora sì, vi farà abbassare la cresta a quei farabutti, ringhiò Piccone, un tipo nero come la pece. Devono piantarla di chiamarci lazzaroni, aggiunse Stashek Fischietto, e speccaio anche lui. Insomma, i volontari di Isaì si mostrarono degni del loro duce, che non risparmiava la vodka per rendere più bollenti i loro spiriti. Tutti ormai imprecavano contro i dritti e ognuno scopriva un motivo particolare per avercela su a morte con loro. E finalmente tutti si mossero verso la casa di Caterina Sperda, ma mano che si avvicinavano si faceva più distinto il suono di un'allegra polca. Gli ospiti non avevano ancora cominciato a ballare e ascoltavano maniera che suonava per far piacere a tutti e anche per guadagnare tempo, perché il suo collega pappagallo era appena venuto e sembrava ancora mezzo intontito per la ciucca del giorno precedente. Nemmeno il sonno di 2 ore che si era concesso gli l'aveva fatta completamente smaltire. E arrivò vestito in modo ridicolo, con un paio di brache bianche e una giacca verde pisello. Faceva un contrasto assai stridente con il violinista. A pochi passi dall'abitazione da dove si stava svolgendo la festa ai sei, fermò il drago. Con me gli altri aspettino nel porticato e sotto le finestre, e quando verrà il momento di menare le mani non abbiate paura di sporcarvele troppo con quegli avanzi di galera. Dopo, solo a cose fatte, ce le sciacqueremo le mani abbondantemente, ma nella birra. E seguito da 4 uomini, Isaì entrò deciso nell'alloggio di Caterina e subito si rivolse a maniera: tu smettila di strimpellare, saresti capace di cominciare con un valzer e di finire con una marcia funebre. Poi, avvicinatosi al tavolo, disse con voce ferma: fuori di qui, Vige, e anche voi due africani, altrimenti metteremo l'ordine noi altri qui dentro, l'ordine. Cascca, Trombadoro scattò in piedi. Lercio, Lazzarone, tu sei una merda, vuoi sloggiare di qui per una buona volta, sì o no? E gli altri, vedendo che Isaia era tornato con la scorta e presagendo una baraonda in grande stile, a uno si alzarono dal tavolo, ma Cascca continuava a strillare: esci subito da qui, guasta feste della malora. Ti concerò io per questa festa e per tante altre ancora, urlò Isaì, afferrato un vaso con un'aga ve lo scaramentò con violenza sul tavolo. I frantumi volarono con fragore nell'aria, i bicchieri e le bottiglie andarono in pezzi. Isaì sembrava impazzito, incominciò a lanciare in aria tutto ciò che gli capitava sotto le grinfie. In pochi secondi Non vi fu più un solo vaso di fiori intatto. Maniera allora afferrò nel gomero per le braccia dal di dietro, ma subito i compari di Isaì si gettarono nella mischia. Don't you remember? E questi erano Dance or Die con il brano Aliens Electric. Ora leggiamo la ultima notizia per oggi di Controinformazione e poi dopo l'ultima lettura sempre per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. Non è una notizia, è una lettera del compagno di un compagno di Act for Freedom nei giorni di sciopero della fame di Nikos Romanos. Andiamo a leggere. 10 dicembre 2014, Regno Unito. Da oggi 10-12-2014 l'anarchico Nikos Romanos sta intensificando la sua lotta, iniziando anche lo sciopero della sete perché insiste nella sua richiesta. La sua vita adesso è appesa a un filo, ha dichiarato il cardiologo, aggiungendo che il suo organismo è indebolito e disidratato. Se questo continua, avverrà un limitato funzionamento dei suoi organi e si troverà nell'immediato pericolo di insufficienza multiorganica. Sui medici è stata fatta pressione di ricorrere all'alimentazione forzata, ma stanno resistendo e combattendo per Romanos ha vinto, non importa ciò che seguirà, fin dove può andare, se vivrà o morirà. Non mi dispiace per lui, neanche se muore mi dispiacerà, lo rispetto. Se fossi stato in battaglia mi sarebbe piaciuto averlo dalla mia parte, non come nemico. Non importa quanti anni ha, lui non è un bambino, lui è una persona con la propria volontà, qualcosa che il resto di noi ha evitato o annacquato. Questo fottuto Romanos, l'anarchico, criminale, l'ostinato, chiamatelo come volete, non gliene frega un cazzo, ha messo il suo corpo di fronte alla mostruosità che chiamano democrazia greca, l'abominio della moderna realtà globalizzata. Da solo, un essere umano fatto di carne ed ossa, da solo, contro tutti. Lui non è un eroe o un martire, né difende i diritti di coloro con la pancia piena che virtualmente si prendono cura di lui nel Parlamento, nei caffè o su Facebook. Lui non grida pane, educazione, libertà ai raduni commemorativi e agli scioperi decrepiti, per poi andare a mangiare popcorn e a guardare l'ultimo film di Ken Loach. No, a lui non interessa essere istruito dall'istituto della nostra miseria. Lui è l'unica persona in questo momento nella terra deserta che vuole tutto. Ormai non importa se fa marcia indietro, se i medici lo salvano, se i ministri e il premier fanno marcia indietro. Romanos, una persona sola, ha sconfitto un'intera nazione. Senza uccidere, senza lanciare bombe, senza essere famoso, senza essere eletto in Parlamento, senza consegnare un paese alla FMI. Da solo, in cambio della sua stessa vita. Quanti di voi, noi, hanno la forza e il coraggio per farlo? Quanti di voi sono pronti a morire per le proprie idee, se ne avete qualcuna, che possono anche essere sbagliate? A morire per la nuova democrazia Siriza e KKE, a morire per la polizia, lo Stato, l'anarchia e la religione ortodossa, la democrazia, il mercato, la letteratura, l'ecologia, la giustizia o per le balenottere azzurre degli oceani? Andate avanti e poi date le vostre vite. Potete farlo? Chi può morire per ciò che crede e per l'amore? Lui, il criminale o l'anarchico Romanos, lo farebbe ed è pronto per farlo. E forse a voi sembra stupido, ma questo mondo è stato cambiato da persone che credevano così tanto in qualcosa che erano disposte a morire per questo e per una persona che, come me, non crede in nulla e dura accettarlo. Nikos Romanos non ha mangiato niente per 32 giorni. Io e voi tentiamo di fare la dieta per perdere dei chili in più, ma non siamo in grado di resistere. Non si tratta di chi ha ragione e chi ha torto, di chi è buono o cattivo o di cosa c'è in mezzo. Romanos è là, da solo e sconfitto, ma lui ha vinto, voi fottuti perdenti, lui ha vinto da solo. S puntata di Act for Freedom Now. E poi c'è un post scritto che dice: Nikos Romanos ha concluso il suo sciopero della fame dopo 31 giorni il 10 dicembre 2014. Questo era l'ultimo testo di Controinformazione della giornata. Ora ci ascoltiamo un brano degli Hellfish Pill Lesson e poi dopo si ritorna qui con l'ultima parte di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki per oggi. It may be rough on the boy, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules. Oh. the matter? Festa fiorita! Gridò Gian Dente d'Oro e sferrò un potente colpo con un sifone da seltz sulla testa del colossale piccone che stramazzò a terra trascinando con sé Carota e afferrando per la gola Petka il toro che però lasciò subito andare perché il colpo ricevuto gli aveva tolto ogni forza. Il mongolo, con un tremendo colpo di testa sferrato sul grugno di un altro barabba, scaraventò a terra anche lui, precipitandosi poi in aiuto di maniera impegnato in un furibondo corpo a corpo con Isai. Lo acciuffò per il bavero della giacca e in due, sì, lo spinsero verso la finestra con l'intenzione di buttarlo fuori, ma Isai scalciava e roteava pugni con tale furore che in maniera fu lì lì per abbandonare la preda. Allora Filippo Calvo fece lo sgambetto a Isai che perdette l'equilibrio e gli furono addosso in tre, lo sollevarono di peso e lo scaraventarono contro la finestra. L'intelaiatura si ruppe con un gran fracasso di vetri che andavano in frantumi e Isai precipitò ai piedi dei suoi compari che lo aspettavano giù e che lo coprirono di botte, avendo l'oscurità impedito loro di distinguere in quel bolide il loro capo. Isai, tuttavia, riuscì ad alzarsi in piedi. Ragazzi, siete matti, sono io dentro, andate, forza, giù, randellate da orbi! In pochi istanti la sala del ricevimento fu una rovina. Tutto era rotto, sconquassato, frantumato, ridotto in brandelli. Sotto i piedi dei belligeranti si era formato uno strato scricchiolante di vetri e di cocci. Contro i 17 lazzaroni si erano dunque trovati 11 dritti, compresi i due musicisti, ma i dritti, mentre si buttavano lo sbaraglio con più audacia, giocavano anche meglio d'astuzia. Le donne prestavano manforte come potevano, casca, tromba d'oro infuriava e dimenava come una vera tromba d'aria, pestava con cocci di vase di bottiglie, mordeva e graffiava, insanguinata, con i capelli al vento, si sdoppiava, si triplicava per non mancare in nessun luogo dove il suo intervento potesse risolvere una situazione in favore dei suoi ospiti. La Tosca invece era calma, ma pallidissima, brandiva due forchettoni, uno per mano. Con uno si difendeva e con l'altro infilzava il sedere di uno degli avversari avvinto in una stretta mortale con Gian. L'uomo si volse, urlando di dolore, e si scagliò contro la Tosca che con una mossa rapidissima gli ficcò la forchetta nell'occhio. Il disgraziato barcollò e, premendosi con una mano l'occhio trafitto con l'altra, sferrò un pugno terribile sulla faccia della Tosca che cadde riversa, poi si gettò su di lei come un demonio e l'avrebbe certamente fatta in pezzi se Jan non l'avesse fermato con una pedata in pieno viso facendolo stramazzare a terra. Ma anche Jan ricevette subito una mazzata sulla testa ed ebbe appena il tempo di alzare il braccio per ripararsi alla seconda che probabilmente l'avrebbe messo fuori combattimento per tutta la vita. Benché intestato dal colpo reagì però con un calcio diretto in mezzo alle gambe dell'aggressore che a sua volta lasciò cadere il bastone e con un gemito si afflosciò sul pavimento. Persino l'esile Lola Mughetto si faceva in quattro per aiutare i dritti nella lotta. Ad un tratto la lampada si spense e la stanza piombò nell'oscurità. Non passò un attimo che il fascio di luce di una pila elettrica sfrecciò per il locale e si udì un colpo di rivoltella e subito una voce minacciosa. «Chi non è stato invitato in questa casta? Esca o gli sparo addosso come un cano!» E rintronarono altri due colpi secchi, sì, sempre di rivoltella. Era Rana. L'ultima pallottola attraversò la spalla di Fischietto, che in quel momento era alle prese con Gian Dente d'Oro. Il panico si impadronì dei Lazzaroni, che se la diedero precipitosamente a gambe attraverso finestre e porte, inseguiti dai dritti. Mezza nuda, imbrattata di sangue, con un occhio tumefatto, Casca sedeva a cavallo dell'anguilla con la grattugia e gli fregava la faccia vomitando spaventose bestemmie. «Ti insegnerò io che cosa vuol dire aizzare noi dritti!» In pochi istanti, con quell'arma bestiale e selvaggia, trasformò in una poltiglia sanguinosa la faccia di Anguilla, stremato dalle botte prese e da una grave emorragia. Anche Caterina Sperda non era certo stata con le mani in mano. Aveva messo fuori combattimento uno degli attaccanti appena questi aveva messo piede nella stanza, buttandosigli addosso una pentola di brodo bollente. Poi, con l'accetta, si era messa a gambe larghe davanti alla porta della cucina per difendere l'accesso. Sei degli aggressori giacevano stesi a terra. Fischietto, con la spalla trafitta dal proiettile di Rana, l'uomo ustionato dalla Sperda che si torceva dal dolore, lo sciagurato a cui Tosca aveva cavato un occhio, Piccone tramortito dal colpo di Sifone, Anguilla barbaramente sfigurato da Casca e infine Grugna, un uomo di forza eccezionale che però non aveva potuto reggere di fronte a Filippo, Fisco e Maniera. Anche due dritti, a dire la verità, giacevano privi di sensi, Petka il Toro e Fisco, che l'aveva incassato proprio da quest'ultimo momento. Tosca si era ripresa quasi subito, ma la battaglia si era spostata nel cortile e riprendevano parte Baran, Gian Dente d'Oro, Svoboda, Filippo, Ian Maniera. Gli altri dritti si erano ritirati dalla lotta in seguito a ferite e mutilazioni. Di Lazzaroni ne erano rimasti soltanto in sette, gli altri o erano stesi a terra o se le erano date a gambe. Isai, che un momento prima sembrava privo di sensi, si riscosse improvvisamente e con rinnovato impeto si gettò nella mischia, assalendo Filippo, non senza aver prima fatto cadere Ian con uno sgambetto. Casca aveva finito il macabro lavoro sulla faccia di Anguilla, accorse anche lei con una grattuccia gocciolante di sangue, ma Isaia lo colpì con una sbarra di ferro e Casca cadde nella polvere con un braccio spezzato. Di questo momento di trionfo di Isaia approfittò Maniera, che afferrando fulmineamente la barra alla sinistra, con la destra vibrò una serie di diretti alla tempia di Isaia. Questi barcollò, abbandonando l'arma. Vedendola ora nelle mani dell'avversario, tentò di saltare lo steccato, ma Baran lo raggiunse e lo fece cadere di nuovo. Anche questi però ricevette un colpo sulla nuca e precipitò a terra. Il primo a rialzarsi fu Isaia. Baran tentò di rimettersi in piedi, ma le forze gli mancarono. Vide luccicare nelle mani di Isaia la lama di un coltello che stava abbattendosi su di lui. Scansò il colpo con uno scarto felino e, afferrato con tutte e due le mani il polso di Isaia, vi affondò i denti. Il coltello abbandonato cadde a terra. Baran se ne impadronì e con una mossa fulminea dal basso verso l'alto tagliò la pancia di Isaia. Il pugno di quest'ultimo, alzato di nuovo per colpire, ricadde pesantemente. Intanto Maniera, violinista, roteando un'altra stanga di ferro, teneva a bada gli ultimi nemici che cercavano disperatamente una via di scampo. Il suo collega musico, il Pappagallo, sedeva impassibile su una panchina, osservando con indifferenza la scena mentre suonava un valzer triste sulla sua fisarmonica. Che gliene importava ormai? Ne aveva viste tante di zuffe, anche se non erano mai state così feroci, era sempre la stessa disgustosa cosa, ed egli ne era stufo e arcistufo. Isaia provò a sollevarsi. Vi riuscì, ma al primo passo le budella gli uscirono dall'addome. Ricadde a sedere e le guardò attonito mentre gli fluivano tra le gambe sparpagliandosi per terra, ululando come un cane. Incominciò a raccoglierle e a ricacciarle dentro, poi tentò di alzarsi e, stringendo con le mani l'orrenda ferita, si mise a correre in cerchio con le ginocchia piegate, urlando finché ripiombò a terra. Gli intestini si sparsero di nuovo nella polvere, ma egli non si mosse più. Il suo ululo selvaggio si fece sempre più rotto e più fievole finché si spense. Dall'alto la luna, pallida e indifferente, guardava. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.